Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa puntata di Economia in pagina è dedicata alla crisi finanziaria e lo facciamo con un libro che ha un titolo in fondo benaugurante, perché si intitola Intermezzo. Ne è autore Roberto Ruozzi. Buonasera, professor Ruozzi. Buonasera. Roberto Ruozzi è un docente universitario, è stato per anni rettore della Bocconi, svolge attività di consulenza, di consiglio di amministrazione, è stato anche presidente del Piccolo Teatro e del Touring Club Italiano e ha scritto questo volume un po' che racconta, come dice anche il sottotitolo, tre anni di crisi bancaria. Ma la cosa da cui voglio partire è proprio questo titolo. Perché Intermezzo, professor Ruozzi? Ma il titolo Intermezzo sta a significare che con ogni probabilità la crisi è destinata a essere appunto un intermezzo fra una fase di sviluppo concitata, caotica e un po' drammatica del sistema bancario mondiale, la crisi stessa, e una nuova fase di ritrovata stabilità che dovrebbe non essere lontana, in cui le regole non saranno più probabilmente le stesse che c'erano prima, ma in cui i concorrenti saranno probabilmente diminuiti, visto che una certa parte saranno scomparsi dal mercato, ma nella sostanza la normalità dovrebbe ritornare e l'intermezzo chiudersi. Ecco, ma non è un po' dissacrante paragonare questa crisi, che per molti versi è stata anche drammatica per l'occupazione, per il potere d'acquisto, per la stessa stabilità economica, a una commedia, come peraltro fa nel primo capitolo, La commedia, le banche e la crisi? Ma sì, ovviamente era un artificio letterario che si ricollega anche un po' appunto alla mia vecchia funzione di presidente del Piccolo Teatro. Ma anche le banche sono tutto sommato dei teatri, giocano la loro commedia. Ogni giorno ciascuno deve vendere, deve fornire al pubblico i suoi prodotti e lo fa talvolta bene, talvolta male. Per cui è fortemente l'attività bancaria basata sull'emotività, sul sentimento, sulla cultura, esattamente più o meno come fa il teatro. E quindi non è anche un caso se poi il teatro spesso ricorda i banchieri. La storia del teatro è piena di commedie e talvolta di tragedie che hanno per interpreti più o meno famosi banchieri. Anche recentemente abbiamo visto dei casi importanti anche nel nostro paese, per cui è un po' dissacrante, come diceva giustamente lei, ma va presa per quello che è. Ecco, indubbiamente quello che cambierà dopo l'intermezzo saranno le regole, sarà la musica, cambierà la musica. Cosa vuol dire questo cambiare dopo la crisi? Che cosa sta provocando la crisi? E questa musica che sentiremo suonare quando, ci auguriamo presto, la crisi sarà finita, sarà una musica diversa? Saremo tutti un po' più poveri magari? Intanto diciamo che forse i protagonisti non saranno più gli stessi dopo la crisi, perché a livello mondiale in particolare una classe di dirigenti bancari di primissima linea è stata rimossa ed è stata sostituita da altri. Il problema reale è vedere se questi nuovi venuti insieme a quelli che sono rimasti si comporteranno più o meno come i vecchi oppure no, nel senso che se si comporteranno come i vecchi credo che i tempi che ci aspettano non saranno molto brillanti. Se invece si renderanno conto che la banca è un'attività che non ha soltanto dei contenuti economici e finanziari, ma anche dei contenuti di carattere sociale importanti, e che gli stakeholders delle banche non sono soltanto loro, ma sono anche i loro clienti, i fornitori, la comunità nel suo complesso, allora può essere che i loro comportamenti cambino e le banche riescano a mantenere quella stabilità che stanno ritrovando. Certo, la società sarà più povera, ha perfettamente ragione, nel senso che il livello di consumi si è abbassato, i redditi non sono cresciuti, oltretutto io credo che ci sarà, fanno molto, un po' di inflazione che ridurrà il potere d'acquisto reale dei redditi delle persone. È un nuovo scenario nel quale occorrerà calarsi. La cosa peggiore sarebbe quella di pensare che questo scenario sarà soltanto un fatto temporaneo, che tutto ritornerà come prima. Tutto non tornerà come prima. Ecco, ci sono due parole che all'interno del libro sembrano quasi fare da filo conduttore. Il fatto che c'è un capitolo che dice sta tornando il buon senso, cioè un po' una visione realistica delle cose, non tanto le utopie quanto la capacità di fare le cose a misura, di non basare il proprio futuro sui debiti, sulle spalle degli altri, e l'etica, e lei ricorda stesso richiamo molto forte dell'enciclica Caritas in Veritate. Buonsenso ed etica è quello che in fondo è mancato in quello che ha provocato negli anni che hanno provocato la crisi. E questa è la constatazione, è un dato di fatto. Ecco, ora il problema è: cambieranno le cose in quel senso oppure no? Questa è la grande sfida che stiamo vivendo. Io ho la sensazione che nel breve periodo, bon gré mal gré, un po' di attenzione in più al buon senso e all'etica ci sarà. Ecco, bisognerà vedere se questo nuovo comportamento sarà giudicato un'opportunità da cavalcare da parte del mondo dei banchieri e anche dei non banchieri, oppure se gli appetiti smisurati che hanno caratterizzato il periodo precedente, il 2007, torneranno a manifestarsi. Io credo che il buon senso nel lungo termine prevale, come prevale la logica, come prevale alla stessa etica, perché un mondo senza questi elementi credo che finirebbe piuttosto male, quindi sono piuttosto ottimista. Ecco, in questa prospettiva bisogna ricreare anche un giusto rapporto tra pubblico e privato. Il pubblico è stato fondamentale per salvare alcuni istituti di credito e quindi per salvare anche lo stesso sistema finanziario, ma il privato resta fondamentale per garantire l'equilibrio, la possibilità appunto di crescita. Questo nuovo equilibrio è qualcosa che salverà anche il mercato, che in fondo è uno strumento che abbiamo in mano per regolare al meglio gli scambi e la produzione. E siamo di fronte a un fallimento del mercato anche finanziario, come dicono alcuni, oppure a delle ferite che lo Stato ha aiutato a curare e che poi danno luogo anche in questa prospettiva a un nuovo equilibrio, professor Ruozzi? Ma che il mercato abbia conosciuto una crisi epocale è fuori di dubbio, che abbia commesso degli errori colossali è altrettanto fuori di dubbio. Che il mercato sia morto credo che invece sia una fesseria, nel senso che il mercato tornerà, anche perché piaccia o non piaccia, ma alternative fondamentali al regime di mercato potabili, gestibili, accettabili non sono ancora state trovate. Lo Stato, certo, il mercato che ci aspetta non è quello che avevano in mente i padri dell'economia liberale del setto dell'Ottocento, è un mercato che deve convivere con una certa dose di Stato. Qua forse ci sono due fatti nuovi, uno diciamo di breve periodo, che c'è lo Stato che si era ritirato dal mercato e tornato prepotentemente nello stesso, soprattutto con la proprietà di banche di grandissime dimensioni in tutti i paesi del mondo, ecco, adesso ha ricominciato la marcia a ritroso, se ne sta riuscendo, le banche rimborsano i finanziamenti ricevuti dallo Stato e le prospettive reddituali sembra che siano piuttosto buone, per cui diciamo lo Stato rientrerà nei ranghi. Quindi dal punto di vista strutturale è indubbio che il mercato vedrà una presenza dello Stato, ma grosso modo più o meno simile a quella che c'era precedentemente al 2007. Il problema è: ma il ruolo dello Stato qual è? Perché quando lo Stato un tempo prese anche d'Italia delle grandi partecipazioni nel sistema industriale, nel sistema bancario, era per questioni di sviluppo, per accelerare lo sviluppo del paese, per trasformarlo, pensi al dopoguerra, la funzione delle grandi holding pubbliche o del sistema bancario pubblico. Ecco, questo non sarà più la funzione dello Stato nel futuro. La funzione dello Stato in termini di proprietà di imprese, di banche, secondo me sarà veramente un dato congiunturale, e che vedrà lo Stato nella nobilissima funzione di porre rimedio temporaneo agli errori del mercato. Con un compito fondamentale, che è quello di fare le regole e di farle rispettare, cioè regolare, far sì che il mercato però regolato possa funzionare meglio, non debba essere in qualche modo limitato. Quindi la funzione dello Stato dovrebbe essere quella di far funzionare meglio il mercato. Non ci sono dubbi, questo è quello che in parte è mancato, perché le regole c'erano anche prima, ma sono state disattese con grande facilità e quindi nessuno se n'è preoccupato, perché sembrava che la crescita dovesse continuare all'infinito. Non appena si sono manifestate le prime difficoltà, il sistema è entrato in panne, ecco. E forse lo Stato ha capito che il suo ruolo è estremamente importante, anche se discreto, ma fare poi il vigilante non è che sia una cosa semplicissima o disonorevole, è una fase, è una cosa fondamentale. Ecco, nella conclusione, nelle ultime pagine del suo libro, lei cita l'economista francese Dominique Reynier, il quale dice: il capitalismo durerà ancora a lungo perché è in grado di farci sognare. Beh, diciamo, l'esperienza sta dimostrando che il capitalismo è insito in ciascuno di noi, nei limiti in cui aspira a migliorare la sua posizione personale e la sua posizione nell'ambito della società. Non è un caso che oggi i paesi che più sono orientati al capitalismo non sono più i vecchi paesi capitalisti, ma sono i paesi nuovi, gli emergenti, quelli che appunto partono da livelli reddituali più bassi e desiderano avere per sé e per tutti gli individui che li compongono una posizione migliore. In questo senso il sogno è quello che coloro che hanno già vissuto epoche prospere possono continuare a farlo, ma che insieme con loro anche il resto del mondo possa crescere più o meno altrettanto. Ecco, speriamo che questa prospettiva sia realistica, se abbiamo un sistema in cui ognuno possa essere libero di sognare, di crescere, ma in una realtà in cui sia garantita anche l'equità, la giustizia e la possibilità appunto di raggiungere gli obiettivi, quello a cui ciascuno è chiamato. Io ringrazio Roberto Ruozzi di essere stato con noi questa sera, abbiamo parlato del suo libro Intermezzo, 3 anni di crisi bancarie, edito da Spirali, sono 500 pagine per 20 euro, è un libro che raccoglie appunto la cronaca degli ultimi 3 anni, aiuta a capire molto la crisi e aiuta a avere soprattutto un po' di speranza nel futuro. Grazie professor Ruozzi, grazie a quanti ci hanno seguito.